Siamo con Gioia Salvatori per parlare di Sgombro Estate, la prima puntata dal titolo Disperazione Comica, il 14 giugno al Monk a Roma. Gioia, ben trovata. Grazie, bentrovati a voi, a te, a tutti quanti. A Come tutto va? il mondo. Esatto, come va? Bene, tu? Bene, bene, bene, arriva l'estate. Arriva l'estate, la prima uscita estiva di Sgombro. Intanto spieghiamo, dai la tua definizione di Sgombro. È un'accolita di personaggi che a loro modo provano a raccontare sia il presente che la loro interiorità e il loro sguardo sul mondo. E questo si declina diversamente per ognuno, quindi ognuno a suo modo, ognuno col suo stile, ci si avvicenda sul palco e si tenta di ridere, diciamo, con un sottofondo di disagio interiore, chiaramente, perché voglio dire, siamo immersi poi, no, nei fastidi, almeno per quanto mi riguarda, e quindi sì, ci avvicendiamo sul palco provando a dare una visione del mondo e a riderne, che mi sembra la cosa più importante. C'è anche della musica e c'è un presentatore. C'è un presentatore, il giovane Ivan Talarico, mi piace dire giovane perché, come dire, perché lo è ancora, che presenta, che introduce personaggi sul palco e che si destreggia, diciamo, tra di noi fondamentalmente, intrattiene, gioca col pubblico, eccetera, eccetera. Sì. Senti, Sì. questa prima uscita estiva. Allora, questa prima uscita estiva avverrà il 14 giugno, l'abbiamo detto, al Monk, ed è una puntata che introduce un po' l'estate, perché appunto ci saranno due appuntamenti con Sgombro dentro la rassegna Disperazione Comica, e questa puntata chiaramente è dedicata all'estate, quindi abbiamo cercato di ragionare su un leitmotiv che conduca tutti i vari interventi. È questo, quindi fondamentalmente ci sono delle sorprese. Che non staremo a No, svelare. non staremo a svelare, diciamo che comunque poi Sgombro è anche un'occasione per noi che facciamo gli attori, gli autori, eccetera, di divertirci pure un po', no? Di sperimentare con delle cose ogni volta un po' diverse, quindi ci ragioniamo sopra e vediamo che cosa ci diverte di più di volta in volta fare, capito? Sì, uno dei pregi di Sgombro è che si crea anche un lavoro collettivo, un modo di lavorare tutti insieme. Sì, a parte il fatto che è un grande scambio, no? Nel senso Sì. che non è che stai nella tua cameretta a vedere quello che fai tu, a parlare di te al tuo cenere muto come la madre di Foscolo, ma stai lì, ti confronti con il lavoro che fanno anche gli altri, da una parte. Dall'altra è uno stimolo perché, come dire, a chi viene un'idea, a chi ne viene un'altra, e quindi poi si ragiona. Ed è anche divertente, fa comporre un po' una cosa tutti insieme, fondamentalmente, no? Sì, sì, Quindi sì. c'ha questo pregio, nel senso, c'ha il pregio pure di intervenire sia sulle nostre, dico una parolona, poetiche, va bene, per capirci, no, per dire, sia di farci venire appunto degli spunti, sia di essere per noi pure un terreno di sperimentazione, di gioco, capito? Sì. Perché il gioco è molto importante nella vita, È eh? fondamentale. È fondamentale. Gioia, tu sei una delle più assidue di presenze. Delle più magre del. Esatto, anche tra le più magre. Volevo chiederti anche che impressione hai su come, rispetto a come si sta sviluppando, puntata dopo puntata. Ma la cosa è cresciuta, il fatto è cresciuto, quindi insomma l'impressione che io ho è che le persone si sono affezionate e noi abbiamo fatto un percorso dentro a questa cosa qui. Io personalmente, per esempio, Sgombro è il contenitore dentro il quale porto il lavoro con i musicisti che faccio, Sì. quindi è diventata una cosa che è partita un po', come dire, all'arrembaggio, nel senso come quando si iniziano le cose tutti insieme. Sì. E poi dopo ha preso una sua forma si evolve di volta in volta, e in più noi ci troviamo pure a chiedere cosa fare, come mettere a fuoco delle cose, insomma, voglio dire, c'ha una sua forma, capito? che muta nel corso degli anni e che si va specificando delle cose invece cambiano, eccetera, eccetera, capito? Sì. In questo senso qua. Senti, per tutti i riferimenti c'è la pagina Facebook La sia pagina di... Facebook di Sì, Sgombro che e la rassegna, dell'evento. appunto, queste due puntate che si trovano dentro la rassegna Disperazione Comica. E quindi sì, ci si può informare, siamo comunque al Monk e quindi per berci delle birrette e farci delle risate, spero Bene. di capire. Disperazione Comica, Sgombro Estate numero 1, 14 giugno, Monk a Roma. Un saluto, un abbraccio a Gioia Un abbraccio Salvatori. a te. Gioia, a presto. A presto, ciao. Ciao. Ciao, ciao.